Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti e buon appetito, perché oggi parleremo di cucina italiana. Ma come è vista la cucina italiana? Ebbene, a sentire gli stranieri che vengono, la ritengono straordinaria. Anzi, tutti dicono che uno dei motivi per venire in Italia è la nostra cucina. Ma a questo punto mi sorge un dubbio sulla ristorazione. Perché? Perché guardando questa graduatoria che esce ogni anno sui 50 migliori ristoranti d'Europa del mondo, di una rivista inglese, beh, insomma, siamo come in Coppa dei Campioni negli ultimi anni, siamo un po' fuori, siamo fuori rispetto agli spagnoli, ma guardando bene nei primi 30 anche rispetto agli inglesi, anche rispetto ai francesi, anche se i francesi veramente sono abbastanza, non hanno un terzo posto come il nostro. Insomma, abbiamo ancora una volta un fuoriclasse, e poi diciamo che la squadra generale, non la nazionale, non tiene molto bene. Ma allora io direi di cominciare a parlare innanzitutto 800 24 00 24, numero verde, messaggi SMS 349 238 6666. Voglio cominciare a parlare di questa graduatoria, perché è giusto che si sappia come viene fatta, come viene realizzata. Allora, abbiamo con noi Eleonora Cozzella, che è una giornalista gastronomica, non solo si occupa appunto del sito del Wine and Food dell'Espresso, ma è una delle responsabili delle regioni, quindi una dei panel del panel Italia, credo, ora poi me lo confermerà lei. E voglio chiedere a lei che ci spieghi come avviene questa votazione. Buongiorno Eleonora. Buongiorno gastronauta e buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano. Allora, come avviene questa votazione? È, diciamo, un grande sondaggio, così è più chiara l'idea, di 36 votanti per ciascuna area geografica, e le aree geografiche in cui è stato diviso il globo, diciamo, sono 26. Le hanno divise per comunanza della cucina. Per esempio, Spagna e Portogallo votano insieme, il Sud America è un panel, il Brasile è un altro, perché ha una cucina evidentemente che chi forma il panel ha considerato diversa. Perciò 26 aree geografiche, 36 votanti un'area geografica, scelti tra critici gastronomici, ristoratori, chef, votano anche i cuochi, votano i propri colleghi, e dei gourmet molto noti per girare molto per ristoranti anche all'estero. Ciascuno può esprimere 7 preferenze, di cui diciamo fino a 4 nella propria area di appartenenza e almeno 3 di ristoranti all'estero. Si parla in totale di 6.552 voti, di cui 250 voti italiani in pratica. Ecco, diciamo Eleonora, che è come il pallone d'oro, quindi ci sono tanti giornali di tutto il mondo sportivi che votano. Bravo, hai trovato proprio la metafora giusta. Votano per un calciatore. Sì. Ebbene, i voti sono si pesano o si contano? I voti si contano. Ecco, importante questo, non è che c'è una ponderazione, non lo so, che i voti di una regione contano più degli altri, insomma. No, assolutamente no, l'unica cosa è che i voti vengono messi in ordine di preferenza di ciascuno, perché in caso qualcuno arrivi a pari voti, diciamo, e allora si va a vedere chi è stato tra le prime preferenze di chi ha votato. Non so se sono stata chiara. Sì, chiaro. Rimani con noi perché abbiamo già un radioascoltatore, Luca. Volentieri. Buongiorno Luca. Sì, buongiorno, chiamo Goito, provincia di Mantova. Luca, io per lavoro frequento dei ristoranti in tutto il mondo, diciamo, Francia, non Francia, via dicendo, anche se il mio lavoro non riguarda la cucina. Sono un buon gustaio, ho frequentato ristoranti in Italia anche a livello 2 stelle, 1 stella, pescatore, ex bersagliera, sì, passatevi dicendo. Non capisco con che criterio venga fatta questa classifica, perché con la Spagna sinceramente noi ci hanno battuto gli europei a livello di calcio, ma per il resto... Beh, Luca, lei forse non ha ascoltato, perché Eleonora Cozzella ha spiegato qual è il meccanismo a livello internazionale, quindi ognuno ha dei voti in tutto il mondo, perché si elegge un ristorante a livello mondiale, quindi è evidente. Ma guardi, la sua riflessione probabilmente la fanno in tanti, però questi sono i dati e credo che non ci sia trucco, tutto al più, e lo butto là, ci possono essere delle lobbying, questo sì, perché magari non si può anche non sapere, però le lobby sono dappertutto, basta mettersi diciamo d'accordo in 50-60 di votare un ristorante, forse questo porta su, però questo è lecito, non è lecito, non lo so, però voglio chiedere a Leonora Cozzella diciamo anche un giudizio suo su questa graduatoria. Allora, il mio giudizio è che questa graduatoria, che probabilmente, ovviamente tutte le classifiche in quanto tali sono discutibili nei risultati, dobbiamo ipotizzare la buona fede dei votanti fino a prova contraria, e anch'io reputo che se ci fossero più italiani sarebbe sicuramente meritata questa maggiore presenza, perché di ristoranti italiani in classifica appunto ce ne sono 4, invece la Spagna ne ha 5. L'America e la Francia 6. Beh, però, diciamo però, Leonora, un'altra cosa, che la Spagna ne ha 3 nei primi 10. La Spagna ne ha 3 nei primi 10, verissimo, ne ha perso alcune posizioni anche rispetto all'anno scorso. Però non so, 3 nei primi 10 vorrei anche sottolineare che la Spagna è stata per anni trainata, certo, dal grandissimo Ferran Adrià, che ha trainato un movimento non solo di cucina, ma anche, se vogliamo, di turismo, perché i governi nazionali e regionali hanno fatto della cucina un volano economico, cosa che purtroppo in Italia non è accaduta. Questo lo faremo, lo vedremo, perché secondo me è un punto veramente importante. Grazie a Leonora Cozzella. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare appunto della cucina italiana, ma soprattutto della ristorazione, perché secondo me qui bisogna anche fare, diciamo, mettere degli spartiacque, perché questa è una graduatoria che colpisce la ristorazione e non la cucina. Bene, abbiamo un radioascoltatore già in linea, Ronald dalla provincia Monza Brianza. Buongiorno Ronald. Buongiorno Paolini, complimenti per la trasmissione. Mi dica. Ha detto giusto proprio pochi secondi fa, noi siamo, a mio parere, io non sono un cuoco, sono un impiegato, però a mio parere siamo molto molto forti, e pochi ci superano, nella cucina casalinga. Noi cuciniamo bene la pasta, cuciniamo bene la carne, se vengono a mangiare a casa nostra la gente è contenta. Oggi nei ristoranti non si mangia più così bene. E soprattutto si spende tantissimo, è qui che abbiamo perso, a mio modesto avviso. Senta, lei ha detto più così bene, vuol dire che in passato si mangiava meglio nei ristoranti? Allora, io ho 45 anni, dunque da ragazzino non andavo spesso nei ristoranti, però oggi mi rendo conto che la qualità non è eccelsa. Non vado al ristorante a 5 stelle perché non me lo posso permettere, ma se vado nei ristoranti normali, onestamente mangio molto meglio a casa mia. Grazie Ronald, grazie Nola. Abbiamo con noi Enzo Vizzari, direttore delle guide dell'Espresso, e devo dire che ho letto anche un suo intervento il giorno dopo la graduatoria, è molto pungente. Buongiorno Enzo. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Tu pensi che sia giusto fare un distinguo tra cucina italiana e ristorazione italiana? In linea di principio senz'altro sì, la ristorazione, però attenzione, non sono d'accordo con l'ascoltatore che mi ha appena preceduto, perché io sono convinto che nei ristoranti italiani oggi complessivamente si mangi bene come non si è mai mangiato in passato, bene, con una cucina evoluta che non è evidentemente soltanto eccellenti paste, eccellenti risotti, eccellenti piatti tradizionali, ma è una cucina completa per tutti i gusti e devo dire anche per, se non tutte, per moltissime tasche. Detto questo della cucina, sottolineo che la ristorazione italiana evidentemente è a un livello nettamente superiore rispetto a quello che traspare da quella classifica che, lo dico subito così ti agevolo nell'andare avanti, non è assolutamente una cosa seria, e quindi bisogna prendere le distanze e bisogna prenderla per quello che è, sapendo ben chiaro che non è una cosa seria. Bene, io volevo aggiungere questo. Poi ti spiego che perché anche. Se no, io voglio aggiungere anch'io una mia chiosa a questa. È evidente che questa è una graduatoria di una rivista che fino a quando non ha fatto questa graduatoria non la conosceva nessuno, e credo che fuori dell'Inghilterra veramente sia semi sconosciuta. E quindi l'ha portata alla ribalta questa graduatoria. Il problema è, Enzo, che questa graduatoria, ahimè, viene presa in grande considerazione in tutto il mondo, e quindi dal giorno dopo ci sono i risultati in tutto il mondo, se ne parla, anche i giornali italiani sono pieni di interventi su questa, e quindi a questo punto ha preso non solo una notorietà, ma anche, secondo me, ha avuto anche un'autorevolezza, purtroppo, e ripeto il purtroppo, e quindi Questo è un fatto che sì, si può veramente dire bene, non è, diciamo, non rispecchia la realtà. Purtroppo però sta succedendo. Comunque Enzo rimani con noi perché continueremo. Sì, voglio spiegare. Prego, spiegalo subito. Ecco, ma semplicemente, probabilmente, anzi sicuramente, lo so per certo, gli italiani che votano, e soprattutto Eleonora Cozzella che mi ha preceduto, fa troppo seriamente, come si deve fare, scrupolosamente il proprio mestiere, ovvero di collettrice dei voti degli italiani, come è giusto, dei giurati italiani. Altri responsabili e coordinatori di area non si limitano a questo, ma fanno vere e proprie campagne per far convergere i voti su determinati candidati. Questo non spiegherebbe perché, al di là del fatto che i ristoranti francesi nei primi 50 siano 6 contro i 4 italiani e i 5 spagnoli, non spiegherebbe, soprattutto per quanto riguarda la Francia, delle assenze semplicemente grottesche e delle presenze di ristoranti semplicemente ridicole. Ci sono dei cambi di voti, degli scambi di voti evidentemente pilotati e organizzati, e qui chiamo in causa, al di là della rivista Restaurant, che è una rivista assolutamente semiclandestina e diretta agli operatori inglesi e tira 10-12 mila copie, è veramente inesistente, la pesante responsabilità di chi finanzia massicciamente questo premio, in primo luogo San Pellegrino, che lega il proprio nome a questo premio, e non si cura, non dico di manovrare i risultati, ma non si cura che i risultati non vengano pilotati come palesemente sono pilotati. Bene, grazie Enzo, grazie. Diciamo che hai espresso il tutto, e diciamo che sul discorso che noi italiani non siamo capaci di fare lobbying e di fare gruppo, anch'io voto, e sicuramente nessuno mi ha chiamato per dire votiamo in gruppo un italiano, quindi credo che questo possa essere un limite, però possa essere anche, come posso dire, un fatto onorabile di non ricorrere a questo. Ma continuiamo, sentiamo Bruno da Monza. Buongiorno Bruno. Sì, buongiorno. Allora, io ho chiamato perché volevo spezzare una lancia a favore degli spagnoli, volevo parlarne un attimino. Io giro il mondo per lavoro e ho vissuto in Spagna per 5 anni e mezzo e ho vissuto il boom culturale, economico della Spagna, che è iniziato intorno al 95-96 e poi finito adesso praticamente con la crisi. Però gli spagnoli hanno vissuto una primavera in quella fase. Ferran Adrià ha rinnovato la cucina, dietro a Ferran Adrià sono andati dietro in tutta Spagna e in Catalogna in particolare. Sì, appunto, quello che ha vinto i fratelli Roca sicuramente hanno molto, sì, di esatto, Ferran Adrià, anche Mugariz che è in graduatoria. Bene, veniamo al dunque, il fatto è questo, io ritengo, non conosco la classifica, ma ritengo di dire, sono quasi certo che nei primi 3 ristoranti spagnoli almeno 2 siano baschi. No, non è così, sono tutte e due della Catalogna, c'è solamente Arzac che è al 10° posto, che allora, è chiaramente basso. Io ho mangiato Arzac, ho mangiato al Buli, ho mangiato, sì, a Can Roca, sì, per mestiere. Devo dirvi questo, io credo che la cultura della cucina spagnola sia stata sottostimata per degli anni, e particolarmente quella basca. Nel senso che non la conoscevamo semplicemente. No, non sono d'accordo con lei. Se non c'era Ferran Adrià, secondo me ancora non si conosceva niente della cucina spagnola. Arzac era noto da anni, però non aveva fatto, diciamo, il boom che ha fatto Ferran Adrià. Se Ferran Adrià non fosse nato, sicuramente la Spagna sarebbe stata dimenticata, e così pure i prodotti spagnoli e i vini spagnoli e tutto il resto. Poi faremo anche questo discorso, cosa c'è dietro diciamo alla ristorazione, cosa c'è dietro a imporre la propria ristorazione. Ci sono esportazioni e c'è la qualificazione dei prodotti, cosa che in Italia non riusciremo mai a fare perché non facciamo sistema, ma poi per questo ne parleremo. Bene, abbiamo con noi anche un cuoco, un grande chef che lavora in Italia, diciamo che si è affermato in Italia, però arriva dal Sud America. Abbiamo Mattias Perdomo del chef del ristorante al Ponte de Fer, appunto, di Milano. E io a Mattias, che apprezzo molto, devo dire, la sua cucina, voglio fare una domanda. Mattias, nella buongiorno Mattias, nei 50 primi c'è tanto Sud America, sembra quasi che stia scoppiando un boom in quell'area. Vedo male da questa graduatoria oppure è un boom vero? Ma io penso che ho sentito un po' tutti i discorsi anche di Enzo e Bruno, insomma, credo che comunque, come si diceva un po', questa guida è un po' una moda, è divertente, bella secondo me, è bella e divertente perché fa un po' di polemica, no? Sì, certo. E questo si viene usato bene nella gastronomia. Tutto è produttivo, non ci dimentichiamo che 20 anni fa di cucina non si parlava così tanto, anzi non si parlava neanche, per cui sì che è vero che Sud America comunque c'è un gruppo di ragazzi che hanno voglia e forza e interesse di venire fuori. C'è anche un grande mercato economico che è in crescita e questo fa sì che adesso tutto il Sud America viaggia molto e si confronte a livello pari con l'Europa dal punto di vista di intensità e voglia, però c'è soprattutto secondo me una grande voglia di fare e mettersi in mostra. Sì, ne vedevo tra l'altro che c'è questo chef brasiliano, appunto, che Alex Atala, che sta abbastanza, diciamo, primeggiando in giro per il mondo, ma ce ne sono di messicani, ce ne sono di cileni, ce ne sono di peruviani. E il tuo paese manca, ma ci sei tu però in Italia. Ci sono io, ma sono ormai da 12 anni qua, sono uruguayo al 100%, però diciamo che sono qua da 12 anni. Diciamo che comunque l'Argentina e Uruguay sono dei paesi, sono un po' fuori di quello che sono Latino America, nel senso che vengono colonizzati molto da italiani e spagnoli, per cui la nostra cucina è molto una ramificazione di quella che è la italiana e spagnola. Per cui non abbiamo dei prodotti autoctoni come può essere il Cile che ha la montagna e il mare, o può essere il Brasile con l'Amazzonia. Mi sembra di capire Perù. Che tu fai una grande correlazione, quindi diciamo chef, cucina con i prodotti che stanno emergendo di quei paesi. Assolutamente, perché se andiamo a vedere comunque l'impronta di questi ragazzi che sono fantastici, hanno un grande cuore, è un'impronta molto comunque cucina contemporanea e moderna. Uno la vede e può trarre dai piatti dei tracci di un po' di impiattare, del modo di impiattare di questa cucina moderna da adesso, no? Certo. Però con dei prodotti che sono di loro, ed è questo che la fa molto interessante. Certo. Noi Uruguay e Argentina diciamo che siamo un po' penalizzati da questo punto di vista, anzi che abbiamo tanto, però non abbiamo saputo sfruttare così bene le nostre risorse come l'hanno fatto invece gli altri paesi in Centro America. Bene, grazie a Mattias Perdomo, che è chef del ristorante al Ponte Fer di Milano. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di cucina italiana e di ristorazione a livello mondiale per questa graduatoria, appunto, dei 50 migliori ristoranti del mondo. Sentiamo un radioascoltatore, Marco da Roma. Buongiorno Marco. Buongiorno a tutti, buongiorno. Prego. Allora, la questione credo che si possa riassumere in questi termini. La ristorazione italiana, quella di alto livello, sta conoscendo un periodo di forte crisi. Lo dimostra il risultato della Nazionale Italiana Cuochi, che si è classificata alle ultime Olimpiadi di quest'anno in Germania, oltre il 35° posto. Sì. E questo secondo me perché si è perso la voglia di sperimentare, cosa che invece in Inghilterra Gordon Ramsay è un nome su tutti, in Francia. Guardi che Gordon Ramsay non è neppure oltre il 100° posto e guardi caso nei primi 10 ci sono 3 spagnoli, non credo che la Spagna abbia una crisi inferiore alla nostra, quindi credo che questo sia un ragionamento probabilmente che non regge, diciamo che le nazioni... livello di sperimentazione non hanno perso voglia, noi c'è stato un appiattimento in Italia. Ma io direi il contrario perché negli ultimi 5 anni in Italia si è sperimentato e come, basta vedere che al terzo posto c'è Massimo Bottura addirittura che è uno di coloro che più di ogni altro ha sperimentato, anzi nei primi 50 i 3 e 4 italiani che ci sono sono tutti sperimentatori, non credo proprio che sia questa la causa. Grazie Marco da Roma, allora continuiamo a vedere alcuni punti importanti. Bene, io con Gennaro Esposito, diciamo chef del Torre del Saracino di Vico Equense, uno degli esponenti della cucina mediterranea, voglio chiedere questo. Gennaro, in questa graduatoria non vedo la rappresentanza della cucina mediterranea. Secondo te per quale motivo? Oppure non ci dovrebbe proprio essere, perché la cucina mediterranea, diciamo, è qualcosa al di sopra di questa graduatoria? Buongiorno a tutti, ciao Davide. No, ma fermo restando il merito di tutti quelli che sono nei 50, per carità, che sono tutti grandi professionisti. Questa è una guida molto interessante, soprattutto quando ha saputo intercettare tendenze. Infatti è stato molto forte il messaggio di qualche anno fa, quando individuava dei bravissimi chef, anche se erano in dei bistrò, in dei posti più semplici. Adesso sinceramente io la trovo un po' più stanca, statica, forse perché voglio dire, non vorrei che diventasse un altro salotto buono. Nello stesso modo come ha saputo intercettare queste tendenze, non capisco perché è rimasta così indifferente alla rivoluzione del sud, alla rivoluzione gastronomica che è successa da noi negli ultimi 10 anni, che trovo molto interessante. Secondo me ci vuole anche una diversa sensibilità geografica nell'individuare poi chi vota, cioè come si fa a non accorgersi del grande cambiamento, ripeto, che è successo al sud. Poi in generale vedo poca tradizione, molto poca tradizione in questa guida. È chiaro che è una guida che ha bisogno di personaggi, di testimoni, è una guida molto legata agli uomini della cucina, che per carità, questo è un messaggio moderno, ma la vedo meno legata alle tradizioni, ai fondamentali della cucina. Forse questo, per me, questi due sono forse dei clamorosi errori. Ma infatti però ti dirò che questo discorso della tradizione è un po' strano, nel senso che viene premiata come migliore cuoca del mondo fuori di questa graduatoria Nadia Santini, del Pescatore di Canneto sull'Oglio, poi vai a vedere in graduatoria è 74esimo, quindi c'è una contraddizione che non consente, secondo me c'è qualcosa che non torna. Comunque rimani con noi Gennaro, poi continuiamo. Sentiamo Roberto da Bologna. Buongiorno Roberto. Sì, buongiorno a tutti. Noi stiamo costituendo un'associazione che tutela gli chef italiani che lavorano all'estero. E il problema che vediamo è che non si fa sistema, cioè il paese non individua nella ristorazione una fonte di attrazione per il turismo, per esaltare la cultura e valorizzarla. Cucina francese è stata classata, cucina italiana no, siamo nel virtuoso carrozzone della cucina mediterranea e questo è un problema. Ma vediamo, io spero che non sia una seconda associazione che vada a duplicare, perché poi sentiremo i Dulcis in fundo Rosario Scarpato, che ha messo assieme appunto tutti gli chef italiani che sono all'estero, quindi che fa già un ottimo lavoro. Vabbè, comunque poi sentiremo da Rosario Scarpato cosa ci dice in proposito sulla tutela dei nostri chef all'estero. Grazie Roberto da Bologna. Ora ho con noi anche Vittorio Castellani, che è chef Kumalé, così conosciuto, che è un giramondo, un globetrotter della cucina, che conosce molto bene, diciamo, soprattutto le cucine, no, anche quella italiana, ma soprattutto al di fuori dell'estero. Allora io volevo chiedere a Castellani, Vittorio, ma tu vedi in questa graduatoria nei 50 quello che si percepisce un po' in giro per il mondo, tu che viaggi molto? Buongiorno Davide, ma devo dire che farò una considerazione, credo che l'Italia, come molti altri paesi dell'Europa mediterranea, si è attraversata da una profonda crisi che ha evidentemente anche una ricaduta su quello che è, diciamo, lo stato di salute della nostra cucina, anche se non mancano le eccellenze e le eccezioni. E quindi cioè, l'andamento dell'economia globale, l'emergenza che si respira nei paesi del BRIC, Brasile, Russia, in Asia e in parte anche in India, credo che giustifichi, oltre a successo all'economia che va bene nel nord Europa, nei paesi scandinavi, un po' lo sbilanciamento verso i nuovi paesi. Devo dire però che viaggiando in questi paesi emergenti nutro forti dubbi su alcune presenze nella classifica, però dico che non dobbiamo neanche dimenticare che il potere degli sponsor, della multinazionale che sostiene questa classifica, non va sottovalutato. Sicuramente il potere oggi di orientare il consumatore e di emulare comportamenti alimentari, stili di consumo che in qualche modo possiamo imparare frequentando alcuni tra i migliori ristoranti del mondo, beh, questi elementi non sono assolutamente da tenere in poco conto, anzi a mio avviso sono determinanti. Grazie, rimani con Marco dalla provincia di Monza. Oggi si telefonano molto dalla provincia di Monza. Marco dalla provincia di Monza, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Volevo fare un appunto sulla Cernita, perché noi stiamo parlando di ristoranti, dei top ristoranti, però l'Italia è fatta da 1 milione di realtà. Secondo me si è persa un po' la sensibilità alle tradizioni in Italia, che hanno sempre portato avanti la cucina, la nostra cucina come migliore cucina nel mondo. Ma questo lo diciamo noi che è la miglior cucina del mondo, attenzione. No, mi permetto di dire che è perlomeno la tradizione o quello che comunque anche sentire percepito all'esterno è sempre stata percepita la cucina italiana, ma l'ha detto anche lei prima, no? Sì. Che gli stranieri vengono in Italia perché sì, riconoscono i nostri prodotti e la nostra tradizione culinaria come una tra le migliori del mondo, corretto? Sì, una tra le migliori, diciamo, perché poi magari se vanno in Francia dicono la stessa cosa. Comunque chiusa la parentesi. Chiusa la parentesi, hai ragione. È vero però che io ho avuto la fortuna di lavorare con persone come Mauro Uliassi, Moreno Cedroni, Manrese, Sergio Mei, Gualtiero Marchesi. E devo dire che quello che ho visto rispetto alle nuove generazioni è che si è, a seconda delle, bisogna fare veramente un distinguo delle aree geografiche, perché ci sono aree geografiche più radicate alla nostra tradizione e che quindi portano avanti una cucina migliore, una cucina vera italiana, e aree geografiche dove un po' questa tradizione si è persa, per cui si è persa anche la voglia di sacrificio in cucina. Certo. Bene, questa domanda la rivolgo, cioè questa sua osservazione la rivolgo a Gennaro Esposito. Si è persa, ci si sta allontanando dalla tradizione. Me lo dicono anche molti SMS che sono arrivati, Gennaro. Ma guarda, secondo me i nuovi modelli che vengono sbandierati di qua e di là sono sicuramente stili e modelli che lontani, come posso dire, dal nostro, però io penso ci sono due ordini di problemi. Intanto voglio dire che quest'anno, Davide, permettimi, che Festa a Vico si intitola Tuo fa l'americano e Mas in Made in Italy, proprio perché, voglio dire, a volte vedo che molti hanno atteggiamenti, comportamenti e stili nella cucina che non sono propri della nostra tradizione, del nostro rispettoso, insomma, del nostro territorio. Però io, durante un recente viaggio a Londra, dove la compagnia degli italiani, diciamo, è fortemente in difficoltà, capisco un messaggio che è importante. Noi dobbiamo cominciare a sdoganare il concetto di cucina italiana. Voglio dire, dobbiamo essere capaci di capire che il locale, il ristorante oggi non è più solo il cibo non può essere, soprattutto all'estero, l'unico elemento, ma dobbiamo costruire, certo, un ambiente, certo, un modo, un sistema, un'accoglienza, insomma la cucina italiana, così come i prodotti, devono essere capaci di parlare al mondo. Adesso, per esempio, l'altro giorno, una manifestazione che parlava di mozzarella di bufala, ho detto: noi continuiamo a non capire che la mozzarella è un ingrediente della cucina italiana che può essere adoperato in tanti modi, ma se noi continuiamo a produrre una mozzarella che dopo 3 giorni ovviamente non è più adatta, tutti i consumi mondiali chiaramente, sì, certo, non li perdiamo, certo, o magari la facciamo fare agli altri. Allora bisogna essere intelligenti e capire che c'è la mozzarella per la pizza e c'è quella per la degustazione, diciamo, in purezza, tanto per capirci. Insomma, bisogna guardare il mondo, bisogna cambiato, fare sistema, bisogna sistema, capire dove andrà la cucina, di che cosa hanno bisogno, dice. Ok, grazie a Gennaro. Sentiamo Riccardo dalla provincia di Bolzano. Chiuda la radio per cortesia, perché sennò non possiamo parlare. Ecco, prego. Sì, buongiorno. Niente, io stavo ascoltando la trasmissione e Io non sono d'accordo su questa classifica, perché io ho mangiato sia in Spagna che in Francia che in altri stati, e secondo me la cucina italiana... Sì, ma qui Riccardo, stiamo parlando di ristoranti, non stiamo parlando di cucina tout court. Sì, beh, io quando vado all'estero, come tanti altri, mangiano al ristorante. Sì, sì, bisogna vedere, appunto. Chiaramente io non posso permettermi ristoranti super extra 2000 stelle, chiaramente, però nella media ho visto che in Italia, a mio modesto parere, chiaramente, certo, si mangia molto meglio nei ristoranti. Il gastronauta. Eccoci di nuovo diciamo a parlare appunto di ristoranti, parlare di questa graduatoria, e ora facciamo veramente un volo, andiamo a Buenos Aires, andiamo da Rosario Scarpato, che è giornalista ma anche regista, e soprattutto è colui che in questi anni ha cercato di portare avanti un discorso sul piatto italiano in giro per il mondo e di coordinare gli chef italiani che sono appunto lavorano all'estero, e sicuramente ha uno sguardo mondiale. Buongiorno Rosario. Buongiorno Davide, buongiorno ai tuoi ascoltatori. Siccome tu giri come una trottola, guardando questa graduatoria che tu sicuramente avrai visto, delle 50 migliori ristoranti, si vede che c'è una grande crescita del Sud America e soprattutto di paesi che fino a qualche anno fa credo che nessun italiano avrebbe mai considerato dentro questa graduatoria. Cos'è successo in quei paesi, Rosario? Io devo fare una piccola premessa e sarò brevissimo. Questa graduatoria rappresenta probabilmente l'uno per mille del mercato della ristorazione nel mondo e ha i suoi pregi come tutte le graduatorie. Per noi che lavoriamo per la cucina italiana all'estero è stata una bellissima notizia vedere Umberto Bombana, il ristorante di Hong Kong, tra i primi 50. Però se siamo attenti, questa graduatoria non rappresenta il mercato reale. Quello che sta succedendo in Sud America è interessante, soprattutto in paesi come il Brasile, è interessante perché stanno emergendo dei cuochi che si sono formati poi all'estero, sono tornati in patria e hanno dato vita a queste nuove tendenze culinarie in questi paesi. Uno per tutti è Max Atala, che tra l'altro ha lavorato a Milano e poi è tornato a San Paolo. Rimani con noi Rosario, abbiamo anche colui che rappresenta l'Italia molto bene, perché è al terzo posto di questa graduatoria ed è Massimo Bottura. Buongiorno Massimo. Ciao Davide, ciao a tutti, ciao Rosario. Ma Massimo, non siamo molto presenti su questa graduatoria perché non facciamo gruppo? L'Italia ma, non guarda, fa sistema? Davide, io sono un cuoco italiano. Nel mio menù ci sono delle tagliatelle al ragù, ai tortellini, alla sperimentazione più riflessiva, ecco. Per me un premio così è un premio a me, alla squadra, che tu conosci molto bene, sì, all'Emilia, ma anche all'Italia in generale. E secondo me è proprio per questo che, è proprio da questo, cioè in modo, va guardato in chiave positiva, non sempre negativa. Io sono d'accordo, non manca il sistema, manca questo senso di forza alle nostre spalle per poter ripartire. Io nel mio menù delle sensazioni l'ho intitolato Vieni in Italia con me, per cercare di fare capire a tutti la bellezza del nostro paese. Partendo da Pantelleria all'entroterra siciliano, andando nel Golfo di Napoli, attraversando in Adriatico, cercando di far fare a chiunque venga in Italia un viaggio gastronomico nel nostro paese, per riscoprire le bellezze, per reinnamorarsi del nostro paese. Dobbiamo smetterla di parlarci addosso, ma dobbiamo fare sistema, essere uniti. Se tu guardi la classifica comunque... E c'è Crippa, Lai, Moscabino e noi. La Nidia Sentini è stata la miglior cuoca del mondo. Sì. Bombana, che è un italiano, come ricordava Rosario, è in classifica. Sì, però, e caro Massimo, Paolo Lopriore, sì, che ha disdetto e ha chiuso il ristorante, era in classifica perché mi ha chiamato me e mi ha detto: guarda, io sarei stato nei 50, ma chiamo perché non così. Sì, quindi Massimo, sono d'accordo con te, però se andiamo a vedere, andiamo a vedere gli spagnoli, andiamo a vedere gli inglesi, andiamo a vedere Davide, i francesi. Gli spagnoli, sono d'accordo con te, risentono del fatto che Ferran Adrià, che è un genio, cioè io amo l'arte e per me Ferran Adrià ha il valore nella cucina di Picasso aveva nell'arte, è stato incaricato dal governo spagnolo di diventare l'ambasciatore per portare nel mondo la cucina spagnola, i prodotti spagnoli, il vino spagnolo. Beh, così pure hanno fatto i danesi, quindi anche i danesi hanno fatto la stessa cosa. Certo, certo, lo so, ma sono dei protagonisti all'estero. Però io voglio chiedere a Rosario Scorpato. Rosario, ma i nostri bravissimi chef che sono nei grandi alberghi, soprattutto in Medio Oriente, ma anche da altre parti, cioè come sono visti? Come è vista la loro cucina? Ripeto, il best 50 è la classifica dei migliori 50, è come una sfilata di moda. Ci sono bellissime modello e sono anche brave, però la ristorazione, la realtà della ristorazione nel mondo è una realtà che parla italiano. Non c'è crisi fuori dall'Italia. Se si va per esempio in India, a Bombay, nascono 10 ristoranti italiani al mese. E se si va in Asia, il ristorante italiano, il ristorante non solo la cucina, è il ristorante che fa successo dal punto di vista economico, dai numeri. Sì, Rosario, se guardiamo le grandi di alberghi, hanno tutte un ristorante, quasi tutte un ristorante. Forse non ti senti. E gli chef sono visti bene, certo, loro danno da mangiare. Uno non sposa Kate Moss tutti i giorni, va a mangiare in un ristorante. La cucina italiana fuori dall'Italia è soprattutto questa, è un posto dove la gente va a mangiare. A me fa piacere che c'hai Massimo dall'altro lato, perché credo che è una delle cose più belle che ricordo delle promozioni che abbiamo fatto. È un anno a Hong Kong e Massimo ha parlato dei prodotti italiani, ne ha parlato con una passione e con una competenza che quasi non sembrava che è il nostro più grande rappresentante di cucina sperimentale, diciamo. Bene, non facciamogli troppi complimenti, perché sennò si muove. No, Davide, sì. Vorrei dire a Rosario una cosa importante, che è vero che la cucina italiana ha un livello medio, è sicuramente una cucina che è esplosa in tutto il mondo, perché è una cucina facile, no? Ma quando vai a parlare di fine dining, cioè le punte di eccellenza, non vedi mai, non trovi mai in una grande catena un fine dining italiano. Io mi ricordo quando andammo a Seoul che c'eravamo io, Thomas Keller e Pierre Gagnère. E me mi avevano messo il mio spazio era la caffetteria di questo grandissimo hotel di Seoul. Gli ho detto, io esco immediatamente. Allora, bisogna anche sapersi imporre e dire, ragazzi, noi abbiamo, perché dobbiamo essere qua? Perché? Perché non ci conoscono, perché non abbiamo ancora, ecco, questo non siamo è il ancora punto. Riusciti ad esportare questo quello è che punto. È la grandezza dell'Italia in questo momento, il gruppo di cuochi straordinari che rappresentano l'Italia da nord a sud, a est a ovest, da nord. Bene, Massimo, ora ti devo portar via la parola, perché ho due ascoltatori, mi spiace, però voglio sentirlo uno. Renzo da Udine, 30 secondi. Io dicevo, a proposito di queste classifiche, tutto bene, tutto fatto, ma quante persone possono andare in quei ristoranti? A quante persone interessa? Quando invece ci sono un'infinità di realtà. Io sono d'accordo con lei, Renzo, però è un po' uno specchio nel mondo. Questa rivista, cioè questa graduatoria va in giro in tutto il mondo. Quindi, secondo me, colpendo l'alto si finisce per colpire anche il basso. Sì, certo, in Italia ci sono tantissimi ristoranti dove si mangia bene e si spende il giusto, non lo sono in Spagna, non lo sono in tutti gli altri paesi, però purtroppo molte volte c'è, come nella moda, c'è l'alta moda e c'è invece la moda di tutti i giorni. Quello che fa sicuramente cassa probabilmente è la moda di tutti i giorni, però dobbiamo tener conto anche del resto. Bene, abbiamo finito questo viaggio, io ringrazio Benedetta, ringrazio tutti che hanno partecipato a questa trasmissione e vi do appuntamento domani alle 11:40 con Nel riposo del guerriero con le mie suggestioni. Quindi buon weekend a tutti e un caro saluto da Davide Paolini. Il gastronauta.